ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Mattino. Nel 2020 stanno riuscendo a portare l'Italia verso essere uno stato di ideologia praticamente comunista, con la Stasi che fra un po' ti verrà a bussare alla porta di casa a vedere cosa stai facendo in casa tua. Io chiederei al governo di smetterla di puntare il dito contro qualcuno, perché adesso si punta il dito e si dice quest'estate siete andati in vacanza, ma il bonus vacanze l'avete fatto voi, e allora smettiamola, per piacere, diciamo che le cose vanno così e basta. Per evitare altri DPCM di notte, vietate dopo le 23 gli assemblamenti del Parlamento o del governo. Questa non è male, non è male. Sentite, io questa storia delle feste private fa un po' ridere, certo, però io non la metterei. E qua Carmelo Lauricella parte. E adesso denunciate Radio 24. Si sente il rumore di una festa con della gente che balla di sottofondo. Denunciate Radio 24. Io però devo dirvi la verità. Spingermi a parlare della Stasi, della dittatura, della negazione della democrazia, mi pare sinceramente un po' troppo. Un po' troppo, anche perché per il momento è solo una raccomandazione. Poi quando dovessero arrivare norme più stringenti, ci ragioneremo di nuovo sopra. Ripeto, mi pare un po' troppo. Più preoccupante, devo dirvi la verità, più preoccupante mi pare quest'idea di alcuni presidenti di regione, ne parleremo con Giovanni Toti dopo perché lui è tra i proponenti, di rimandare i ragazzi delle superiori a fare scuola solo da casa, senza toccare nemmeno una classe. Preoccupante per la salute psicologica dei ragazzi, ovviamente. Che certo, può avere un senso dal punto di vista sanitario, però... Dibattito aperto anche qua, se volete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio. È martedì 13 ottobre, sono le 7:21 minuti, è la seconda parte di 24 mattino, quella, come ben sapete, dedicata alla rassegna stampa. Al microfono Simone Spezia. Cene in casa e gite, ecco i limiti, è il titolo del Corriere della Sera. Il governo no al lockdown può uccidere l'economia, è il titolo del Messaggero. La Repubblica apre sul scontro sulla scuola, torniamo alle lezioni da casa, è un virgolettato che sono appunto le parole dei presidenti di regione. Gite, cene e parti, arriva la stretta, il titolo della Stampa. L'Europa richiude, l'Italia socchiude, titola Il Fatto Quotidiano. Scuola a rischio, titola anche Il Giornale. Il governo ci fa spiare in casa, titola invece La Verità. Il tema è proprio quello che ci diceva l'ascoltatore poco fa, del quale ci parlava l'ascoltatore poco fa. Il giro di vita entra anche nelle case, è il titolo del Quotidiano Nazionale. Avvenire parla di disciplina preventiva. Ci parlano di tasse invece Il Sole 24 Ore e Libero. Il Sole 24 Ore ci ricorda... Oh, vi erano mancate le cartelle esattoriali? No, vero? Tornano a partire dal 15 ottobre. 9 milioni di cartelle in 6 mesi. È stato tutto un po' dilazionato, eh? Vedremo come andrà. È il titolo del Sole 24 Ore. Italia prima in Europa nel pagare le imposte. È il titolo di Libero. La pressione fiscale reale si porta via la metà dei guadagni. Il Manifesto. Profitto Uber Alles. Il tema qual è? È l'inchiesta su Uber Eats, quella per la consegna del cibo per caporalato. Arriveremo anche a questo, anzi ci arriviamo tra un attimo. E però, come sempre, voglio iniziare da qualcosa di diverso, e questo qualcosa di diverso è una storia. È una storia che ci racconta di un ragazzo di 20 anni morto nel 2002. Si tratta di Vincenzo Moretti e la storia ce la racconta La Stampa a pagina 10. È morto nel 2002 in un incidente stradale. Quella notte la Ford Ka viaggiava a bordo di quest'auto, lui insieme a sua cugina Maria Esther, anche lei ha perso la vita. La Ford Ka si scontrò frontalmente con un Alfa Romeo guidata da Researt Turco, un uomo albanese di 30 anni. Il 14 gennaio partirà il processo d'appello bis per le questioni civilistiche. Il racconto di questa storia è cosa di particolare? In realtà viene da dire niente, perché è la perfetta rappresentazione della lentezza della giustizia italiana. E qua La Stampa con Elisa Forte raccoglie l'appello di Biagio Moretti, il padre di Vincenzo. L'incidente dunque è del 2002. Il processo di primo grado è iniziato a maggio del 2006, 4 anni dopo la tragedia, ed è terminato 3 anni dopo, nel 2009. Si sono susseguite 19 udienze, molte di mero rinvio, senza che venissero espletate attività funzionali alla decisione. Per arrivare al giudizio di appello di anni ce ne sono voluti più del doppio, 7. 7 anni per arrivare al giudizio di appello. Per 4 anni il processo è rimasto fermo in attesa che fosse fissata l'udienza di trattazione, alla quale sono seguite altre 7 udienze per giungere alla decisione il 4 ottobre 2016. 7 anni. In entrambi i gradi di giudizio si è affermata la responsabilità di, appunto, Researt Turco, condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione. Nel 2017 la Cassazione annulla con rinvio la sentenza. 15 anni dopo arriva la decisione della Cassazione. Il nuovo processo, quindi partirà un nuovo processo, deve accertare l'eventuale concorso di colpa. 18 anni sono passati da quell'incidente, 18 anni da quell'incidente nel quale ha perso la vita Vincenzo Moretti, e ancora non si vede l'uscita. Ed è, ripeto, un caso esemplare di come in certe situazioni funziona la giustizia italiana. La vicenda di Uber, a proposito di aule di giustizia, la storia è questa, lo sapete, Uber Eats era stata commissariata per caporalato. Ci sono dettagli ulteriori che emergono dall'inchiesta ieri, con la chiusura dell'indagine. L'accusa per 10 manager è appunto caporalato ai danni di richiedenti asilo che venivano letteralmente truffati sui compensi. Abbiamo creato un sistema per disperati, commenta nelle intercettazioni una dipendente. E per questo viene ripresa dalla manager Gloria Bresciani: ti prego, davanti a un esterno non dirlo mai più, anche se lo pensi, i panni sporchi vanno lavati in casa e non fuori. E il racconto, queste le intercettazioni le prendiamo dal Manifesto a pagina 5, poi c'è il racconto di Luigi Ferrarella che entra nel dettaglio sul Corriere della Sera, pagina 20, su come funzionava, almeno secondo l'accusa, secondo i magistrati, questo sistema. L'indagine penale riguarda i rapporti tra Uber e la società milanese di Pony Express Flash Road City FRC, rapporti misconosciuti ma sottostanti al via vai di panini di McDonald's sulla piattaforma digitale Uber Eats, in forza di uno contratto di prestazione tecnologica con Uber, appunto. Era in quei rapporti anfibi che si creavano le condizioni nelle quali, secondo quello che ritengono la Guardia di Finanza e il PM Paolo Storari, migranti da Mali, Nigeria, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Pakistan, Bangladesh, richiedenti asilo e dimoranti in centri di accoglienza straordinaria, pertanto in condizioni di estrema vulnerabilità e isolamento sociale, venivano pagati a cottimo 3 euro a consegna, indipendentemente dalla distanza da percorrere, dal tempo atmosferico, dalla fascia oraria, e poi venivano derubati delle mance che i clienti lasciavano spontaneamente ai riders e puniti attraverso un'arbitraria decurtazione del compenso qualora non si fossero attenuti alle disposizioni impartite, e poi depauperati anche delle ritenute d'acconto che venivano operate ma non versate, e anche sanzionati attraverso la sospensione dei pagamenti dovuti. Questo è il racconto raccolto da dal PM Storari e dalla Guardia di Finanza, vedremo come evolverà questa inchiesta. Facciamo così, ci prendiamo una pausa adesso e poi torniamo. Il grande tema che, se volete, ci ha sottoposto anche l'ascoltatore poco fa con un WhatsApp audio è questo. Sì, ok, tu mi limiti, mi dici le feste private non le puoi fare, mi di l'obbligo della mascherina, ma tu, Stato, inteso come Stato, come Regioni, sei pronto ad affrontare questa seconda ondata? Ebbene, da quello che peschiamo dai giornali, pare proprio di no. Ho guardato tra sabato e domenica in Veneto. Dalla promozione alla terza categoria di calcio si sono affrontate 600 squadre. Ora, se tu calcoli solamente le persone scese in campo, quindi 22, e moltiplichi per 600, ti rendi conto di quante persone sono entrate in contatto nell'arco di un'ora e mezza, sabato e domenica. Aumentare lo smart working nella pubblica amministrazione solo perché non ci sono abbastanza mezzi pubblici, invitare i privati a farlo vuol dire uccidere migliaia di imprese, dei servizi. Sì, è un tema che abbiamo affrontato spesso, però il problema c'è, e se posso dirlo all'ascoltatore, lo dico con dolore e con preoccupazione per tutto un mondo di bar e ristoranti che si basava anche su questo, temo che questa cosa dello smart working sarà la nuova normalità, almeno in parte, anche dopo il Covid, e quindi bisognerà iniziare anche a resettarsi, a riragionare su tutto questo, almeno per come la vedo io. La questione del calcio giovanile, amatoriale, caro ascoltatore, ha ragione. Però è difficile togliere anche questo ai ragazzi, e penso soprattutto a loro, a quelli che praticano attività sportiva. Seconda ondata. Siamo pronti? No. Almeno a giudicare da quello che trovo sui giornali di oggi. Al di là delle nuove norme varate nella notte con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ora non vorrei gettarvi addosso un eccesso di preoccupazione, per carità, però le cose che trovo sui giornali oggi sono preoccupanti, un po' preoccupanti. Iniziamo da questo. Siamo pronti con le terapie intensive? No, non siamo pronti. Siamo a pagina 6 del Sole 24 Ore. Il pezzo lo firmano Marzio Bartoloni e Sara Monaci. Ci raccontano che sì, le terapie intensive sono in crescita, ma solo 3 regioni sono pronte. Solo Veneto, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono pronte ad affrontare la seconda ondata con una dote di letti in terapia intensiva che supera i 14 posti per 100.000 abitanti, una soglia di sicurezza fissata dal governo a maggio scorso, quando stanziò 1,3 miliardi con il decreto rilancio per potenziare questi reparti necessari a malati Covid più gravi. Le altre regioni sono indietro. Qual è quella più indietro? La Campania, con 7,3 letti ogni 100.000 abitanti, cioè la metà di quelli consigliati. L'Umbria, 7,9. Le Marche, 8,3. Numeri appunto che sono la metà di quelli delle regioni che sono in pari. Sono più vicine a questo livello Lazio, Emilia e Toscana. La Lombardia è comunque avanti nella riorganizzazione e ha la possibilità di attivare dei posti aggiuntivi, perché ha 800 attrezzature aggiuntive per poter intervenire in rapidità. Ricordando, e lo ricordano giustamente Marzio Bartoloni e Sara Monaci, che le terapie intensive non sono solo per i pazienti Covid, l'occupazione media è del 50% per le altre patologie. Siamo pronti dal punto di vista della medicina del territorio? No, stando a quello che racconta La Repubblica a pagina 4. Con Michele Bocci e Antonio Fraschilla ci racconta innanzitutto il problema dei medici di famiglia, l'abbiamo affrontato poco fa alle 6:45. Una presenza fondamentale nel territorio è quella dei medici di famiglia. Non a caso il Comitato Tecnico Scientifico ha proposto di affidare a loro il compito di fare il tampone agli asintomatici, ma in molte regioni, dicono, ne sono rimasti pochi. E ancora le regioni. Le USCA, che sono le unità create durante la prima ondata dell'emergenza per andare a casa dei pazienti a fare tamponi e prestare assistenza, non sono abbastanza. Le regioni virtuose, dice Italo Angiolillo, presidente della Società Italiana di Igiene Preventiva, sono le solite, Emilia Romagna e Toscana. Nelle altre il sistema non funziona. In base al programma del governo Conte per garantire tamponi domiciliari e tracciamento, in Italia si dovrebbe istituire una USCA ogni 50.000 abitanti. In totale dovrebbero essere 1.200, in realtà ne sono attive meno della metà. Siamo pronti a gestire la nuova ondata di smart working nella pubblica amministrazione? No, nemmeno questo. Lo racconta bene il Messaggero a pagina 10 e ci racconta la seguente situazione: la valanga di pratiche lumaca con 100.000 dipendenti comunali a casa, perché si va verso lo smart working al 70% nella pubblica amministrazione. Siamo con Francesco Bisozzi. Con le nuove disposizioni in materia di smart working resteranno a casa circa 100.000 comunali, 1 su 3, e a rischio boom le pratiche lumaca. La pubblica amministrazione tornerà al lavoro da remoto per frenare il virus. Almeno il 70% di chi svolge attività considerate, oddio che brutta parola, smartabili, ovvero circa 800.000 statali, lavorerà in modalità agile. Non sono ancora pronti però i POLA, i piani organizzativi, con i quali le singole amministrazioni devono stabilire, tra le altre cose, i criteri di valutazione delle performance dei dipendenti pubblici in smart working, per tenerli sotto controllo quando non timbrano il cartellino. I controlli arriveranno bene che va a gennaio, e nei comuni che hanno investito meno nella trasformazione digitale, a queste condizioni il ritorno massiccio al lavoro agile rischia di mandare nuovamente in tilt servizi demografici e tecnici, procurando disagi a cittadini e imprese. Non solo, secondo la sindaca Virginia Raggi, la sindaca di Roma Virginia Raggi, lo smart working creerà grossi danni economici al centro di Roma, che è un po' quello che ci diceva l'ascoltatore prima, no? Che diceva, guardate che l'estensione dello smart working sul fronte di bar, ristoranti, servizi locali, anche penso ai barbieri nelle zone degli uffici, tanto per fare un esempio, ai parrucchieri nelle zone degli uffici, rischia di creare gravissimi danni. Una posizione espressa nella riunione governo, comuni, regioni, in netto contrasto con le scelte dell'esecutivo e dello stesso partito. L'esempio che porta il Messaggero è il comune di Roma, che è in grado al momento di far lavorare da casa 2.000 dipendenti senza subire rallentamenti. Ma per effetto delle nuove restrizioni, i comunali smart working saranno circa 3 volte tanti, ossia 6.000, quindi praticamente impossibile da gestire. Ma siamo pronti noi? Siamo pronti nei nostri comportamenti quotidiani? Perché abbiamo... Hai voglia a prendere in giro il governo per le frasi del ministro Roberto Speranza... dal sen fuggite, viene da dire, l'altro giorno da Fabio Fazio, nella trasmissione alla quale ha detto quella roba della dell'azione per i vicini che fanno le feste private. Ma siamo pronti nei nostri comportamenti individuali? A leggere il pezzo di Niccolò Caratelli sulla Stampa a pagina 6 pare proprio di no, perché il racconto che arriva da Milano, una delle città che ha più alto tasso di contagi in questo momento, è un racconto imbarazzante. Molti di voi tra l'altro ce l'hanno portata testimonianza con qualche messaggio SMS, messaggio su WhatsApp, e il pezzo inizia così: non fate foto o video, mettete i telefonini in tasca. L'annuncio ormai è un classico nelle discoteche italiane, in cui in teoria non si può ballare. Quelle che restano aperte perché hanno eliminato la pista e si sono trasformate in bar dove bere cocktail e ascoltare musica seduti al proprio tavolo. Ma quando, sempre a tarda notte, la voglia di muoversi e di avvicinarsi prende il sopravvento, la preoccupazione principale dei gestori è evitare che ci siano prove del ballo fuori legge. Perché è già successo che le stories su Instagram, le dirette Facebook o i semplici video celebrativi postati dai presenti abbiano fatto scattare la visita della polizia municipale, il verbale, la multa e in alcuni casi la chiusura. A fine settembre è toccato a due locali di Milano, il Sio Caffè in zona Bicocca e l'Arizona 2000 in Viale Monza, dove gli agenti hanno accertato che decine di clienti ballavano ammassati e senza mascherina. Più o meno quello che si è verificato sabato scorso in un club di Via Padova, sempre a Milano. L'invito parlava di DJ set, spettacolo di drag queen, racconta Marco, che l'altra sera era lì, ma l'una e mezza hanno spostato i tavoli e la gente ha cominciato a ballare. I ragazzi della sicurezza, che devono solo di indossare le mascherine inutilmente, controllavano che nessuno facesse video con lo smartphone. Cosa succede? Succede che la gente appunto balla. Vi voglio portare infine, per chiudere un po' il capitolo Covid, su questo buon pezzo su un sito, su un giornale online, l'inchiesta di Francesco Maselli, che si sofferma esattamente sulla questione delle feste private, del tema della delazione, e ne trae un po' di conclusioni generali. Dice che il governo sa che alcune cose si sarebbero potute gestire meglio, a partire dalla questione del test e dei tamponi, malgrado la continua propaganda sul modello italiano invidiato da tutto il mondo. E però qui sta la tentazione, sa anche che in questo momento storico la sua tendenza a occuparsi dei comportamenti dei cittadini è vista con meno sospetto. Non riesce a starne alla larga e utilizza il suo potere normativo per mandare messaggi, attività molto più semplice rispetto alla gestione concreta dell'emergenza, che è complicata e purtroppo ad alto tasso di fallimento, giova ripetere, non soltanto per colpa del governo di Giuseppe Conte. Non serve a niente imporre la mascherina anche a chi cammina per strada da solo alle 3 di notte, se non a far capire che la situazione è molto grave, per intenderci. La tentazione è soddisfare la propria ossessione del controllo amministrativo, ossessione per la verità corrisposta da gran parte dell'opinione pubblica. Da qui il divieto di feste private, difficilmente applicabile, ma che ha il pregio di risolvere due problemi. Facciamo vedere che agiamo e allo stesso tempo ricordiamo che la situazione è grave. Che importa se poi il carabiniere che viene a bussare alla mia porta non ha alcun diritto di entrare in casa a controllare quante persone ho invitato e cosa sta facendo? Potrebbe farlo soltanto con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Sicuri di voler impegnare i magistrati per verificare che nelle case private ci siano 6, 8 o 12 persone? Sono dettagli, perché l'importante è mandare un messaggio. Messaggio che peraltro si basa sulla disponibilità degli altri cittadini a farsi vigili guardiani del rispetto del divieto. Ed è una cosa, ricorda Maselli, che abbiamo fatto ampiamente. Lo zelo profuso dalle persone affacciate alle finestre nell'additare i runner come principali responsabili della diffusione del contagio. Il Comune di Roma che pubblicizza una sorta di kit dello spione con il quale si indica ai cittadini il modo migliore per denunciare i vicini che creano assembramenti. Il traffico. Mattino. E dunque, siete pronti all'arrivo delle cartelle esattoriali? Siete pronti? No? Beh, immagino che non lo sia nessuno. E però dal 15 ottobre ripartono, fra due giorni. Ricorderete che avevamo ospitato il viceministro all'economia Misiani, il quale ci aveva detto: faremo andare le cose con calma e non tutto entro l'anno, però entro 6 mesi sì, come ci ricorda il Sole 24 Ore oggi in edicola. 9 milioni di cartelle in 6 mesi, scrivono Marco Mobili e Giovanni Parente, e siamo a pagina 3 per la ripresa della riscossione coattiva. Si riparte lì da dove i contribuenti italiani morosi erano rimasti prima dell'esplosione del Covid-19, dalle notifiche degli atti lavorati e datati marzo 2020, un ritorno scaglionato all'attività ordinaria, spalmata sui prossimi 6 mesi, e dunque appunto 9 milioni di cartelle in arrivo. Se volete tutti i dettagli li trovate appunto a pagina 3 del Sole 24 Ore, che ce l'ha anche in apertura. Politica, un po' di politica, va, entriamoci su questa politica che si compone soprattutto in questo periodo di tutte le tensioni intorno alla chi sarà il candidato a sindaco di Roma? Chi sarà? sarà forse per il centro-sinistra Carlo Calenda, e per il centro-destra, beh, il centro-destra nemmeno ci ragiona, però nel centro-sinistra è già scattata una discreta confusione. Abbiamo ben raccontato ancora del Partito Democratico che è intenzionato forse a fare le primarie, forse no, ma non è ancora chiaro, perché c'è quest'ombra di Calenda che si staglia sulla competizione elettorale. Il Corriere della Sera, pagina 14, ci dice il messaggio di Calenda al PD. Ma Zingaretti dice decidono i romani. Carlo Calenda invia un messaggio a Nicola Zingaretti, al quale fa intendere che non scenderà in campo contro il Partito Democratico, come molti Dem temono. Dice: se decidessi di candidarmi chiederei certamente l'appoggio del PD, ma non potrei fare abiura sul governo. Vuol dire, se il Partito Democratico per candidare me mi chiede di sostenere il governo Conte, di sostenere l'accordo con il Movimento 5 Stelle, che è il motivo per il quale io me ne sono andato al partito, ebbè, scordatevi che io mi candidi a queste condizioni. Si parla delle primarie, si parla di varie candidature in ballo, addirittura di esterni, di candidature civiche. Zingaretti che dice decidono i territori, il ministro Enzo Amendola che interviene, i candidati sindaci si scelgono nelle città, ascoltando così le esigenze dei dirigenti locali, perché la decisione spetta a loro. Però insomma, così si sta muovendo la vicenda romana. Con la vicenda napoletana ne trovate traccia anche qua a pagina 14 del Corriere della Sera, con Luigi De Magistris che lancia come possibile candidatura quella di Alessandra Clemente, 33 anni, assessore ai giovani del Comune di Napoli. Dall'altra parte, nel Movimento 5 Stelle cosa sta succedendo nella candidatura per Roma? Che Virginia Raggi sta cercando più appoggi possibile. Come lo fa? In parte entrando nella crepa e nel solco che si è creato all'interno del Movimento 5 Stelle, chiedendo l'appoggio di Alessandro Di Battista, dopo le parole di Luigi Di Maio, nelle quali Di Maio sembrava averlo scaricato. L'idea comunarie per ricompattare il Movimento 5 Stelle, di questo scrive appunto il Fatto Quotidiano, siamo a pagina 6. Dunque, il ritorno delle primarie, il ritorno delle comunarie è un tentativo evidentemente di un po' di sviare l'attenzione, forse, chissà. Luca De Carolis e Paola Zanca ci raccontano a pagina 6 che ieri sera c'è stata la prima riunione del Movimento Romano, oggi i lavori preparatori del PD Capitolino in vista del vertice di coalizione di domani. La corsa per il Campidoglio è partita e giallorosa marciano più divisi che mai. Ieri i Dem hanno assistito all'ennesima puntata della saga Calenda. Preferiscono i 5 Stelle a lui, è la sintesi dei suoi sostenitori, e ancora sperano di rimuovere il macigno Raggi. Ipotesi praticamente impossibile, che ora, nelle discussioni interne al Movimento 5 Stelle, ruota intorno a una variabile ancora da definire. Si faranno le comunarie, il voto su Rousseau? Come capite, poi tutto si intreccia anche nella discussione eterna che si sta sviluppando all'interno del Movimento 5 Stelle, proprio sulla piattaforma di Casaleggio. Allora, qua possiamo andare per tirare un po' le fila, come sempre facciamo e come spesso facciamo, possiamo andare da Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, a pagina 8. Vince chi va, scrive Lina Palmerini, oltre i confini dei partiti. Ci sono diverse ragioni, ci spiega, per cui la gestione delle candidature alle comunali, in particolare a Roma, creano tanti tormenti, e non solo nella maggioranza. Certo, da questo lato la scelta è più faticosa, perché si tratta di costruire qualcosa che va a rompere un altro tabù nel mondo dei 5 Stelle e che va a toccare una candidata, poi diventata sindaca, che ha regalato al movimento la prima grande vittoria, aprendo un varco per le politiche del 2018. Virginia Raggi è stata una sorta di simbolo, quella che ha avuto la maggiore copertura dei vertici e di Grillo, soprattutto, che per lungo tempo ha offerto il suo sostegno all'amministrazione capitolina con numerose visite nella capitale. E però qual è il punto? È che bisogna allargare il campo, così sostiene Lina Palmerini. Come hanno dimostrato le ultime regionali, sono vincenti quelle figure che vanno al di là delle appartenenze politiche strette e riescono a uscire fuori dai confini e ad allargare sulla base di una competenza o di uno stile di leadership o sulla capacità di mettere insieme più segmenti possibili. Dunque, questo è il dilemma delle prossime amministrative, che saranno importanti non per dare una spallata a Conte e andare alle elezioni anticipate, anche perché ai primi di agosto scatta il semestre bianco, ma per definire le strategie delle successive politiche. E appunto i partiti, anche quelli di centrodestra, potrebbero affidarsi a dei candidati cosiddetti civici. Insomma, inizia la caccia ai candidati per le comunali, per chi può fare il sindaco. E come vedete, di ragionamenti sulla competenza al momento non ce ne sono tantissimi. Ci sono più ragionamenti su chi può vincere o chi non può vincere. Cosa ancora? Beh, visto che siamo sulla politica, fatemi chiudere con questo pezzo di Valentini sul Foglio, che ci racconta, è un retroscena, quindi prendetelo come volete, probabilmente arriverà oggi stesso la smentita. A quanto pare Giancarlo Giorgetti avrebbe, che come sapete di fatto il vice di Salvini, l'anima moderata della Lega, così viene identificato, avrebbe minacciato le dimissioni se non arriva una svolta della Lega europea in chiave di ingresso nel Partito Popolare. E questa ve la lascio là, ripeto, retroscena, probabilmente sarà smentito, però è un elemento, se volete, del dibattito che si sta svolgendo anche all'interno del partito di Matteo Salvini. Ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra un attimo come sempre con Paolo Mieli per un punto di giornata e subito dopo avremo ospite il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, col quale parleremo anche del tema che dai presidenti è stato sollevato, come sapete, quello dell'ipotesi di rifare da remoto tutte le lezioni per le scuole superiori e poi andremo da un medico italiano che lavora in Gran Bretagna per farci raccontare come stanno le cose là tra poco. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente ed ha una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.